Unità 1. Pronuncia. Traccia 9. 1. Piacere. 2. Australiano. 3. Marta. 4. Città. 5. Lingua. 6. Polacco. 7. Gelato. 8. Insegnante. 9. Semplice. 10. Ospite. 11. Unità. 12. Gita. 13. Dizionario. 14. Cinese. 15. Perché. 16. Musica. 17. Pausa.